Chi è avanti? Carlo. Ciao Carlo. Che cosa stai regolando? Stavo impasticciando qua. Io atteso adesso. Vediamo se c'è qualcuno. C'era anche Luca che sta scaricando un programma. Ah, ho capito. Niente, giornata un po' così nuvolosa, però credo non ne sta facendo. È intorno alle 10 così vado a fare un po' di spesa. E stasera c'è un po' di lavoro. Mamma mia. Sino alle 21 mi avrei voluto vedere la partita, ma non so se riesco. Lo so, purtroppo bisogna lavorare. Ancora fortunatamente non è che abbiamo tantissimi voli, per cui tra uno e l'altro già abbiamo anche momenti di pausa. D'estate che non ci fermiamo un minuto, d'estate in continuazione. Adesso il 26 cambia l'orario e anche la programmazione, c'è quella estiva, e quindi già dal 26 ci sono roba di 7 voli in più e poi vanno via via aumentando sino a metà aprile, capito? Ho capito, ma vediamo un po'. Perché ci sono i turisti in estate, un macello. Ciao, ne andando il turren dire i voli. E dopo la pandemia, capito? Meno male che ne siamo usciti. La gente adesso non ne poteva più, ha ripreso a viaggiare da tutte le parti, capito? Non ci sono più, diciamo, restrizioni in nessun paese d'Europa e quindi si è ripreso meno male come prima della pandemia, dai. Un po' già fa bene all'economia, un po' a tutti. Te credo. E ieri notte eravamo in chiacchiera, sono rimasto sino alle 11:30, qua su 10. Eravamo 3 o 4, è entrato anche Giulio poi tardi. E a che ora siete entrati? Perché io a quell'ora ho visto che non c'era più nessuno e me ne sono andato via. Ma verso le 9:30, adesso non ricordo l'ora precisa, però più o meno è dalle 9:30 siamo rimasti un paio d'ore buone. C'era Davino, è entrato Franco da Sorso, io e Roberto, e poi è entrato anche Giulio, non eravamo in tanti, ma ci siamo fatti così una chiacchierata, capito? Siamo rimasti sino alle 11 passate, poi era anche un po' stanco e io me ne sono andato, li ho lasciati in chiacchiera, allora non so sino a che ora sono rimasti. Vedi, a saperlo, io non ho visto che a quell'ora hanno chiuso tutti e via. E ogni tanto qualcuno già entra a farsi quattro chiacchiere anche dopo cena, capito? Non è sempre che capita, perché a volte magari uno si guarda un po' la TV, eccetera, a volte non c'è niente. Tipo ieri notte ho detto non ho voglia di guardare la TV, ho provato ad accendere, invece ho sentito che c'era qualcuno che chiamava e allora sono entrato io, poi dopo un po' eravamo in 4-5, dai. Nicca, adesso controllo, dopo cena vediamo un po' se entra qualcuno, buono sapersi. E anche qualche giorno fa Gianni mi aveva detto che si sono trattenuti dopo cena lo stesso, quando c'è la possibilità, insomma, si può anche fare. Io quando non ho il turno di mattina già vado a letto anche un po' tardi, mezzanotte, mezzanotte e mezzo a volte, e quindi essendo solo poi non disturbo nessuno qua. Infatti. Bene, Natali, buon proseguo di mattinata, io c'ho un po' di cosette da fare, poi dopo devo uscire e mi prenderò un caffè e poi a fare un po' di spesa, perché qua iniziano a mancare i viveri, capito? Visto che è aperta la Conad di domenica, già sono vicino a casa, tanto esco in macchina, mi faccio un po' di commissioni, devo prendermi la frutta che ho finito un po' tutto, e poi stasera sera, tardi, rientrano gli altri, se no mi dicono ma qua ci lasci così, non trovano niente, il frigorifero vuoto, che mi sono bumagnato tutto. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi se coincide, Natalie, che mi preparo e poi devo uscire per fare qualche commissione. Ok. Anch'io da fare cosa? Alle 10 mi devo misurare, perché oggi devo misurarla tutto il giorno, la glicemia. Eia, d'accordo, fatti bene, Natali, alle prossimine, ciao, buon tutto. Ciao, ciao, alle prossime. Eia. C'è qualcuno qui? Beh, Luca, fini due. Quasi. Mi devo solo portare il nome, dai. Ho ordinato anche l'altro cavo per l'altra radio, quella grande, per collegarla al computer. Già me l'avevi detto. Dal Regno Unito, 30 euro, 28 e qualcosa, adesso quando arrivi, ma ha detto il venditore un paio di settimane ci mette solitamente. Ma almeno puoi usarla come se l'usassi. Aspetta un attimo, mi devo misurare la glicemia. Fai. Così posso scaricare, mi scarico. Ambradio di Lux anche. Beh, Luca. È nata lì, ero in terrazzo. Terrazzo, vedi? Sì, sto facendo il barbecue. Ah, già preparendi, sì? Perché io poi lo chiudo, lo metto a posto, capito? Quando finisco di cucinare, lo copro, lo spengo e lo copro. Gava. Ah, io pensavo di andare a fare questa cosa, ho misurato la glicemia. Ho aspettato, però, non ti sei più sentito. Sono uscito fuori. No, mi stavo facendo bello pure. Gatta, mi ho misurato la glicemia, siccome ti devi chiamare tutta la dimisura in dimira oggi, prima di pranzo e dopo pranzo, due ore dopo pranzo, chi ci aveva mai rompito i belli cattoli, due volte alla settimana lo devo fare. Ma perché? E così a di tu, Ica. Mi do calciato tutta la ricazza misurando la glicemia. L'ho misurata a colazione, due ore dopo colazione. Adesso devo misurarla prima di pranzo e dopo pranzo. E da voi, salute. Siete? La misuri più di noi diabetici. Come? E la misuri più di noi diabetici. Tu insulina non fai, poi vai. La notte solo, quella lenta faccio. Figurati. Vuol dire che stanno tenendo sotto controllo qualcosa. È sempre buona la glicemia mia, me la volevo togliere quella della notte, pure lei non ne ha bisogno di insulina, ma di tu. Non gliela tolgo perché per non dargli un'altra pastiglia, perché lei già ne prende troppe con la pancreatite che ha avuto, allora ti mude non me ne ha dato e mi ha dato l'insulina. Sì. Quanto ne fai di notte? Sei unità ne faccio, amico, sa di grine voi. E poi devi vedere anche tu quando te la misuri la mattina. Se è troppo bassa, perché quella della notte si sta coprendo troppo, ma 6 unità non sono niente. Infatti non è nulla, e isso è. Che rompimento di scatole, mi gira ira, non ne posso più a cabo mio. Ma sta attento a chi su chi mangia. Infatti, allora. Basta lasciare i baschi, vabbè che abbiamo fatto il bacchettino. Che canni mangia a baschi? Se mi pongo burro un dolcificante, molte volte me lo bevo amaro il caffè. Anche io uso il dolcificante, due bustine nel latte e una nel caffè, anche una scarsa ne metto nel caffè perché è dolce. Vabbè, ma noi... Io me ne faccio poca insulina, prima 4 me ne facevo, 4 insuline mi facevo al giorno, però poco, poche unità. Anche io la faccio a tutti i passi più la notte, 14, 16, 18 e poi 24 la notte. Infatti, invece mi ne ha cavata, ma a chi c'ha duce, a Basilia, a chi da chi mi ha dato prima mi ha fatto mari, e allora giù ripiglia da farmi l'insulina io. E dopo mi ha trovato questa pastiglia qui e fortunatamente non mi fa nulla e quindi funziona bene. Probabilmente da quella pancreatite, questo diabete. Infatti, e se no io non avevo, no. A chi lo sapevo che ero predisposto e stavo attento a quello che mangiavo. Da Rubani, io mi negavo la mollicca, se io mi mangio un panino, che non me lo mangio, me ne mangio mezzo, no? Quando mi lo mangio, mi negavo pure la mollicca, quindi non è manco mezzo panino questo che mi mangio. Figurati un poco. Io manco quello mangio, due fette biscottate nel latte e burro la mattina, ma pane non ne mangio, nulla, troppo, niente. Invece manco colazione mangio pigliato un caffè e burro. Ma quella devi fare, un pochino di latte, però vabbè, se hai avuto pancreatite è meglio evitare. Io ho avuto la pancreatite e sono vivo un miracolo, mamma mia, chi su che giù basta due mancarigani, non lo auguro al peggior nemico, quello che ho passato io. Allora c'è la cucina. Guarda, sono vivo per miracolo, ma l'ho preso per i capelli proprio, una ghida senza magna, ma ne da cado, nuda mi. Ma che cosa ho detto pancreatite? Lo sanno i soldi, ma è giunta la pancreatite, ad a voi mi hanno acciappato i calcoli alla giustifellea, che mi sono occupato per appagisso a chi mi zia, mi ha detto, non ti metrumi, fatti operare, a chi io sa che ti venga anche attacco d'ora di pancreatite, e vi buoni i benni, a sai niente che muccia dalla pancreatite, cazzo. Mi sono fatto operare, poi c'avevo anche un'ernia, mi è venuta nel frattempo e mi sono fatto operare anche quella, quindi non vado più nulla. E allora devi andare a lui. E l'unica chissà, ma roba da chiudi, tutto quello che ho passato io, cazzo. Guarda, tutto ancora è più buio. Mi sono disabilitato di ricalcoli a chi mi viene fatto la dacche. E la risonanza magnetica mi hanno fatto all'ospedale quando mi hanno ricoverato, capito? Sì. Feue. Dice che è morta un po' di gente, e quanto mi stavano dicendo, anche mia zia me l'ha detto. Infatti, infatti operare, perché mi avevano trovato questi calcoli alla cistifella, mi avevano trovato. E mi sono occupato operare subito. Però al policlinico mi ho fatto operare prima la colicisti e poi l'ernia. A chi mi è giunta senza i fotti né niente, deve essere via la lesione. Cusendomi in macchina con un amico mio per farmi accompagnare i pilari e me ne ci dà l'ernia. Un dolore, gatta. Ma lei se scende un po' l'obbrusio tu, no? Alla sola so chi scende, cosa fa l'obbrusio? Se c'è un po' l'obbrusio, mi torni miracolato. Davvero, mi pare cazzo che... chi lo telefona è giù? Perché così... mi vede pochi madonne e madonnine. Chi su era? Un giornalista... lo chiamavano... Asetta. l'uomo da marciapiede, a chi ci andava sempre in tribunale e cosa, a chi travagliava con Emilio Fedemi, a Rete 4 lavorava, e lui stava sempre nel marciapiede. Eppure era in gamba, era tutta trasmissione, da poi boh, si è trasformato, visto che le è successo, boh, si è andato alla doppia fede. E è diventato bravo. E infatti, l'agnellino va diventato, va, boh, in televisione non questi praticamente, va e se ne racconta delle storie di loro, di Chieto, dell'altro, io. Ma niente, è andata, ma è portata peggio un buco, e se io poi resisto una cosa del genere, fate bene, in ogni luogo, non solo dove bisogna andare a chiedere. Infatti, ma loro credono, e lasciamoli credere, allora cosa vuoi ti dire? Io so che solo questo che è successo a me, da bui. Allora, perché sono successo a me grande rumore, capisci? Questo sì che è vero, ma a chi non era una misura, capisci? Questo che sta zia in casa con noi, siete fuggiti in mutande, da una casa, lasciatelo dire, oh, yeah. In mutande siete fuggiti. Ma che andano all'ordine, ne tornano, andano in carrozzina, ne tornano in corrente, aiutati. Gira io, pallanca, mi pare che andi, ma vedi se ne torno correnti. A chiamamma con camminà a puzzo, ma roba da chiudere. Faccio pochi metri, mi... ando da casa a Rugaraggio, vedi, non è lontano. Cazzo, mi vedi che c'è dolore allucinante, oia. Ti fai male per forza, eh. Ma se torni da Paolino, secondo me, capito. Ti convinci, ti convinci. Io non penso, no. Chi mi convinci, a che a me non mi arrivi, non mi arriva sangue alla gamba, capito, è quello. Ed è il male della vetrina, lo chiamano, e cioè quando ti viene il dolore, dirvi, ma come ti stia mettendo una vetrina? Cazzo, ma un dolore allucinante, guarda, e io cazzo, di quanto camminavo svelto, quando andavo a cazzo, mi poca niente, la chi se mi puniva a fatto. È proprio bagisso, piccola. E così, no, a me pare che ci sono pagati, tipo Brusio, a dei che si corsi. A cominciare a niente, andare chi vi a pagare per il posto, albergo e tutto quanto. A me pare che sono pagati, chi si. Mi si fa dire lo sgombo, così mi dice. Però non ti garantiscono niente, dicono, può succedere come non può succedere. Sì, importante che io ripeto faccia i chili, no? E pare io muro divento cattolico, cosa ne dici? E ci fermo lo sgombo, Luca. Noi muro vediamo i madonnini. E come ti dice che c'è dentro la visione? Non è mica che la Madonna che piange, che è fenditinato tanta vista, però per le onlus, la verizzai. Ripermici il muroccio, un po' caretto, ripermici i lacrimi di lui. E infatti hanno controllato subito, era un marito, vedi se lo sangue, l'hanno posto medico, e poi il risultato negativo, e a 6 ore ha procurato un po' di sangue. E infatti da che asco. E ma se ho duri sei bisogni di chi solo cava, vedi, così li fate di navis, facendo credere alla gente. Ui. Ma siamo esami lui. A Tava devo fare questa visita all'endocrinologo, devo fare, a chi mi hanno acciappato dei nodulini, i radizenti, che ci hanno fatto l'ecografia. Ha detto, ma cosa bisogna fare per curare? Se ritiene, mi ha detto. Solo che aveva la dottoressa mia, mi ha ordinato questa visita dall'endocrinologo, e non ci sono posti. A Giulia ha telefonato due volte. Ma sulla Pavona che fanno le fotografie. Okay. Risonanza, come mai non ti ha richiesto la risonanza? No, ma ha richiesto la visita dall'endocrinologo, però non ci sono disponibilità, cosa vuoi ti dica? Ah, va, lui dovrà telefonabili. Se no telefoni già l'ottorato. Cazzo, ma pari cazzo una bora a Bari. Ma che non vi siano i buchi? O non vanno i produttori, cazzo, chi non vanno lo specialista, magari non c'è specialista e non prendono appuntamenti per quello. Ma lo dicano chiaro, cazzo. E infatti, e allora? Perché i privati non lo so così. Ehi, avviserà, ma tocca baga. E altro è invalido, cosa fai? Hanno paguti. Deve chiedere, capito, non paghi tutto, una piccola parte te la fanno pagare. E allora mi informo, si vega che endocrinologo è andato a pagamento, cosa mi ne affuntica? A un certo punto non puoi fare la visita, boh. Chissà poi cosa ti fa questa visita, io non l'ho mai fatta, io non lo so. Non lo so, neanche io l'ho mai fatta, la risonanza sì. E a chi l'ecografia raggiù, è curugoso, chi sa mi la buccio, no? Allora manco a Baida, in Chivi è Dusago, sai? Uff, che giramento di scatole. Ma ne date pure un GD, quindi se può vedere l'ecografia al computer, se la può vedere. Ma visto che ne comprendi, cazzo, l'attacca che la paga il computer non sa cosa sia ben termine, ma pa. A voi che avete di me, lo vede, ma cosa, se mai detto preciso. Cazzo di aro. E chissà chi mi ha fatto l'ecografia allora, che ha detto, vuol dire chissà, lo comprendi. No, lo vedono, ma a noi, tedesco, ma è abbastanza, guarda su YouTube, no? Vi so i video di queste visite all'endocrinologo, quindi un po' di cosa si tratta, ci sono centinaia di video. Allora, mai da vedessi ragazzo, visita endocrinologica, boh. Ce ne saranno video, spiegazioni. Che dopo se mi ha detto così non è niente di grave, perché si parla di millimetri, nodulini dice che sono. È una specie di ecografia, sto guardando qui. Visita non invasiva e indolore che permette di valutare o monitorare disturbi e malattie associate alle ghiandole endocrine o endocrine, gli organi che producono gli ormoni. Tra questi sono inclusi tiroide, testicoli, ovaie, ipofisi, eccetera, eccetera, pancreas e quant'altro. E io non ho nessun disturbo alla tiroide, niente. Mi ha fatto l'ecografia al collo. Questa qui, però disturbi non ne ho io di... Sì, è una visita che fanno sia con le mani, toccandoti, che con una specie di ecografo, sì, esatto. Questa visita che stai dicendo, così te la fanno, non è niente di che. E ti toccano sotto il collo, la ghiandola, eccetera, eccetera. Adesso vedo lunedì, se, no, se mi dicono che non c'è disponibilità mi informo se c'è qualche privato che la fa. Come sei già fatto la cosa, appunto, l'endocrinologo poi ti tocca sotto il collo perché lui sa dove toccare e vede un po', capito, com'è la situazione, perché l'ecografia te l'hanno già fatta, però dall'ecografia poi appunto vuole vedere magari dall'endocrinologo toccando con le mani se c'è qualche ghiandola, magari gonfia. E vabbè, io gliela porto l'ecografia e così vedono un po'. Speriamo che ci sia qualche posto, se no tocca andare a pagamento. Informati su internet, è nata lì, su internet, apri internet e scrivi visita per appunto invalidità e ti mando al sito dove e quanto paghi per quella determinata visita. Mica fa. E vedrò un po'. Adesso lunedì prima telefono, se ci sono posti. A chi dice mi sono pendicato dei vaccini? Non hanno lo specialista, evidentemente non c'è il dottore. A chi non ci sono disponibilità, ti ditemi. No, qua dice che allora, vedete, valutazione è una valutazione medica, si dice. Qua dice una valutazione medica, appunto, a scopo di individuare presenza di malattie legate al sistema endocrino e quindi in genere dei disturbi ormonali. Viene eseguita dall'endocrinologo specialista in endocrinologia. Il medico durante la visita valuta lo stato di salute dell'individuo, prescrive gli esami necessari per l'approfondimento diagnostico e suggerisce le terapie più opportune. E infatti, ma che a beso mio, manca lo specialista, capito? Sicuramente, perché mancano un bel di medici, a quanto ho capito, a beso mio, 20 miliardi mi mancano. Dall'epidemia, ne sono licenziato un bel appunto. E infatti, mancano molti medici e quindi o non hanno lo specialista, se una io la dovevo fare di queste visite, ando a fare la visita e non c'era il mio nome, me l'hanno annullata praticamente, fammi l'appuntamento e non ho dovuto fare la visita, in chi va a Sant'Ubrido? Ah, ma mi sono detto che non ho bisogno di disponibilità, evidentemente non avrei dottori, io sono convincente, a chi già una me l'hanno annullata. C'è Valghero, si chiama dottor Luca Pes. Si paga, questa qua si paga 120 euro a Valghero. Guremo di. Allora, vi lo dico se ve lo Galghero, e cosa vi dice? Sì, io sono sul sito, addirittura mi dice, ce ne sono diversi, i prezzi sono tutti uguali, devi solo scegliere il medico. E poi c'è scritto, scegli orari e prenota, addirittura, lo puoi fare tramite internet. E vuol dire che sono privati? Se te lo sto dicendo. Allora, Luca Pes, per esempio, c'è anche venerdì 24 marzo, dalle 9, le 10, le 11, mezzogiorno, le 1. Tu scegli, prenota, scrivi nome e cognome e fatta la prenotazione. Vai a Givi, ti va la visita. Nel frattempo, però, vedi un po' per la... o lo chiami e dici, guarda, io sono invalido, c'è qualche possibilità di pagare meno? E lui ti spiega tutto. E infatti, bisogna pagarsi. Cazzo, ma non è possibile. Aspetta, te lo sto mandando il corso. Così ti guardi i vari medici lì al Ghero, che fanno la sua medicina. Aspetta, si vede a Sassari, è lui. Sai che guarda. Allora, allora, ecco qua, la dottoressa Elisabetta Lai, viale San Pietro 43, 112 euro, visita endocrinologa, in endocrinologica, 112 euro, qua dice, allora, poi mostra dettagli, allora. Si chiama così questa, privato, studio privato, viale San Pietro 43. C'è anche via Coppino, c'è anche. E come si chiama? Solo si chiama. Poi ce n'è una Veneve, che ha fatto visite. E vabbè, avamba in due. Via Coppino 26. In chi viene meglio? Se c'è pure un cuba a posteggiare la macchina, ad esempio. Ci sono belle recensioni su questo medico. una bella impressione, ti mette subito a tuo agio, ti preoccupa veramente della tua salute. Davvero un bravo medico. Dottor Tulu si chiama così. Sì. Sì, domani mi dici in avviso di disponibilità, mi rozzecco il dottore e ando così. E cosa vuoi fare? Fatti. Intanto ha ripilato e non i capibiti. Cazzo, mi hanno già nulla ad una e più avevano avviso disponibilità. Deve essere che non vanno i riduttori, lo specialista. Ma tu vai lì direttamente. Vedi un po'. E infatti. C'è anche su Facebook, mi dovevo contattare. Anda bene, Meta. Mi pare che vi posso qualche cosa, mi. Ehi, ehi, infatti io sono fuori. So che interrasso, bella giornata, so che preparare. E allora mi preparo qualcosa pure io, dai. Ehi, già ti aggiorno, dai, che l'ho contattato a quello lì, vediamo cosa ci dice. Ok, miau, miau. Già sono qua, se hai bisogno chiama, già ti sento da terra. Ok. Ciao signora. Papà Natalino. Natalino. Brutto insulinomane. Natalino!